Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nell'agenda delle riforme che il governo intende mettere a punto il prossimo autunno compare la riforma fiscale. Se ne discute per la verità da tempo. All'inizio dell'anno era stata avviata la prima fase di consultazione con le parti sociali, poi l'emergenza imposta dalla pandemia ha imposto uno stop. Ora il cantiere della riforma fiscale sembra riaprirsi e secondo le intenzioni del governo le nuove misure dovrebbero entrare in vigore dal prossimo anno. Vedremo come si intenderà intervenire sull'IRPEF, ma anche sul cuneo fiscale e sulle agevolazioni. Uno sguardo retrospettivo ai mutamenti intervenuti negli ultimi 40-45 anni nel nostro sistema tributario può essere utile a evitare quantomeno di commettere errori. Ne parliamo questa sera con Tommaso Di Tanno, professore di diritto tributario al Master della Bocconi. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a voi. Risale al 1973 la grande riforma che ha ridisegnato alle radici il sistema del prelievo. Con la riforma del 73 scatta l'obbligo della dichiarazione dei redditi. Nascono l'IRPEF, l'IVA, l'IRPEG e l'ILOR. Nella seconda metà degli anni 70 vedono la luce la ricevuta fiscale, i registratori di cassa, e all'inizio degli anni 80 si punta a inasprire il sistema delle sanzioni penali con la legge Manette agli evasori, mentre con la Visentini-Ter scatta un meccanismo di determinazione del valore aggiunto a seconda dei settori produttivi. Arriva puntuale il condono, pratica ricorrente del nostro sistema tributario, e fioriscono strumenti come i coefficienti presuntivi e di congruità, l'accertamento parziale sintetico del reddito, il redditometro. Nasce la minimum tax e nel 1998 gli studi di settore. Nel 2000 fa il suo esordio il cosiddetto forfettone, cui seguono il ricavometro, l'accertamento per adesione, la conciliazione giudiziale, il concordato preventivo biennale, la pianificazione fiscale concordata e un maxi concordato di massa. E poi ancora la Dual Income Tax e l'IRAP. Nel 2001 nascono le agenzie fiscali e prende avvio il fisco telematico. In tempi più recenti si va dagli 80 euro di Renzi alla flat tax per le partite IVA del governo Conte 1 e al taglio del cuneo fiscale per 3 miliardi in vigore dallo scorso 1 luglio. Professor Di Tanno, prima di parlare della riforma che verrà, parliamo un attimo del passato e del presente. Ecco, perché a suo avviso il nostro sistema fiscale si è inceppato? Ma il sistema fiscale si è inceppato perché ha bisogno di un'amministrazione che funzioni. Non esiste un sistema fiscale fatto di sole norme, ci sono da un lato le norme e dall'altro ci sono coloro che devono farle funzionare. E quelli che devono farle funzionare devono avere una struttura materiale, cioè computer, tavoli, se vogliamo, disponibilità di strumenti di indagine, ma poi anche la preparazione giusta, l'evoluzione professionale che va di pari passo con l'evoluzione degli strumenti tecnici. Ecco, su questo punto c'è stata una sistematica discrasia. Il legislatore, diciamo, andava molto avanti e l'amministrazione rimaneva sistematicamente un po' troppo indietro. Beh, allora sì, certo, questo è un tema fondamentale. E poi c'è il problema della progressività del prelievo, che come sappiamo è un principio sancito dalla nostra Costituzione. Anche questo si è perso un po' per strada. Ma per quale motivo? Cioè, ci sono stati troppi interventi sulla struttura del prelievo o è mancato qualcosa? Quando parliamo di progressività, la progressività non deve riguardare qualsiasi imposta. Per esempio, avrebbe poco senso che la progressività riguardasse l'imposta sulla benzina o sui tabacchi o sulle concessioni governative o sul bollo. Quindi la progressività finisce inevitabilmente per essere concentrata soltanto su alcune imposte, ed in particolare l'IRPEF e l'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, è rimasta una certa progressività fino all'inizio degli anni 2000, diciamo fino all'inizio del XXI secolo, e poi c'è stata una sorta di corsa al ribasso, per cui la progressività nell'imposta sulle successioni si è del tutto persa, col risultato che vengono tassati nello stesso modo patrimoni, non so, di 2 milioni di euro e di 200 milioni di euro. Quindi con l'imposta sulle successioni si è fatto un deciso passo indietro. Per quanto riguarda l'IRPEF, che avrebbe dovuto essere l'imposta progressiva per eccellenza, la verità è che il difetto nasce sin dall'inizio. Sin dal 1973 l'IRPEF progressiva avrebbe dovuto essere applicata su tutti i redditi, ma già a giugno del 1974 si introduce la cedolare secca e sostanzialmente si introduce la tassazione forfettaria, il che vuol dire non progressiva, dei redditi di capitale. Altrettanto si fa sostanzialmente con i redditi immobiliari, che sono tassati sulla base di risultanze catastali. Ora sappiamo che da un lato il catasto è sistematicamente sottodimensionato rispetto ai valori effettivi degli immobili, ma dall'altro dà luogo ai importi definiti forfettariamente. Cioè, quindi diciamo che la lesione del principio della progressività nasce sì nel 1973 con la stessa nascita dell'IRPEF. Sì, e poi c'è il tema ovviamente fondamentale della gigantesca evasione, che è stimata in 110 miliardi, ma probabilmente è anche superiore. Ci sono stati dei risultati, ad esempio la fatturazione elettronica sta dando buoni risultati, però evidentemente ancora non siamo riusciti ad aggredirla alla radice, questa piaga del nostro sistema fiscale. Questo è un problema da un lato di come dire, capacità di indagine da parte dell'amministrazione finanziaria, dall'altro diciamo pure che è un tema di costume. È un tema di costume perché il cittadino italiano non ne vuole sapere di collaborare, anche il cittadino per bene non ne vuole sapere di collaborare, non ne vuole sapere di farsi rilasciare la fattura se non ha uno specifico interesse. Quando si va dal parrucchiere si sostiene un costo che non è deducibile, quindi avere la fattura o non averla è praticamente la stessa cosa. Certo. Ora parliamo un attimo brevemente della riforma che verrà. Ancora non ne conosciamo ovviamente le linee portanti, ma a suo avviso quali dovrebbero essere gli assi principali su cui il governo dovrebbe basarsi nel ridisegnare la struttura del prelievo? Credo ci si debba mettere d'accordo sui termini. Sì. Noi vogliamo la riforma fiscale, cioè la riforma del sistema tributario italiano, o vogliamo semplicemente la riforma dell'IRPEF, la riforma dei redditi da lavoro, per capirci? Perché se si vuole una riforma del sistema fiscale, allora i temi sono più di uno, sono almeno quattro. Il primo è la struttura delle imposte, quindi diciamo la formazione della base imponibile, la definizione delle aliquote, la definizione dei soggetti passivi d'imposta. E questa è la parte in un certo senso più conosciuta. Ma accanto a questa c'è poi la parte che io dicevo assai rilevante del funzionamento dell'amministrazione finanziaria, perché le imposte, oltre che pensate, vanno poi accertate, cioè va verificato che ciò che dice il contribuente è corretto, e vanno anche riscosse, perché parte dell'evasione degli ultimi anni non è stata un'evasione da omessa dichiarazione, cioè non è stata una evasione da menzognera dichiarazione, è stata un'evasione fatta di mancato versamento. Io dichiaro che ti devo versare 100 e non li verso, o ne verso 15. Nell'intesa che tu, amministrazione finanziaria, farai una certa fatica a venirmi a cercare e quando anche mi dovessi trovare, poi esce sempre una qualche rottamazione che trasforma il 100 di debito in un debito di 45 o di qualcosa di meno. Quindi c'è una seconda gamba, che è l'organizzazione della pubblica amministrazione, che io considero importantissima. La terza gamba è poi il contenzioso. È ben possibile che contribuente e amministrazione finanziaria restino sulle proprie posizioni, cioè non vadano d'accordo sull'interpretazione di una certa norma. Il funzionamento della giustizia tributaria non è migliore, diciamo così, del funzionamento della giustizia civile in generale. Quindi se la giustizia civile funziona poco, la giustizia tributaria funziona come minimo poco anch'essa. Poi c'è un quarto tema, che è quello dei rapporti con gli altri paesi. Quindi chiamiamo la tematica di diritto tributario internazionale, che non è evidentemente un nostro appannaggio unico, ma in cui il nostro ruolo è stato particolarmente modesto. Si pensi a fenomeni tipo la web tax, cioè si pensi a fenomeni di rapporti internazionali in cui sistematicamente in Italia si dichiara poco e all'estero si guadagna molto. Certo. Beh, quindi abbiamo davanti una serie di, come dire, di problematiche che il governo dovrà cercare di affrontare e l'impressione è che sarà un po' complicato però che venga affrontato tutto questo con, come dire, un approccio a tutto campo come quello che ispirò la grande riforma del 73, ma staremo a vedere, abbiamo qualche mese di tempo, vediamo il governo cosa ci proporrà. Professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi e le auguriamo buona serata. Grazie molte e arrivederci a tutti, buona estate. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.